later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il conto alla rovescia è lì per cominciare, Kappa e Drago si risvegliano nella fabbrica. Le trois frères. Oui. Non. Pas du tout. Kappa, è un'ora che mi disturbi coi tuoi sogni parigini che non finiscono mai, la vuoi smettere? Drago, anche tu qui... nella fabbrica. Ma che domande mi fai? Sveglia, Kappa. Questo non è più un sogno, questa è la tua realtà. Ecco, senti. Vabbè, chi se ne frega, tanto Parigi non mi piaceva neanche. Sì, si è capito che non ti piaceva, però allora perché continui a sognare di essere lì? Quante altre città potresti visitare in sogno? Bruxelles, Montreal, Algeri, Marrakesh. Tutti i posti dove si parla francese, perché? Ah, non lo so, ho detto dei posti a caso. E per caso in tutti quei posti parlano francese, quindi per caso. Sì, sarà il tuo karma, no? Incredible karma francese. Nel sogno c'eri tu, no? E c'era anche il pollo. Eravamo come al solito a Montmartre e stavamo lì a discutere di linguistica applicata. Hai presente? Tu citavi Chomsky, io citavo De Saussure, il pollo citava Robert Fripp e discutevamo ore. E ore. Di linguistica applicata. Sì, ore. Sì, ma sei sicuro di sentirti bene? Cioè, con tutte le cose che si possono sognare a Parigi, tipo essere con Carla Bruni, essere con la Bellucci, tu sogni discussioni di linguistica applicata col pollo in sbattimento? E con te. Vabbè, con me tanto quanto qualcosa di linguistica applicata magari puoi anche dirlo, però col pollo in sbattimento, dai. Infatti lui citava Robert Fripp. Ma Kappa, inutile, la fabbrica di polli ci è entrata nel sangue ormai, anche nei sogni, la linguistica applicata. Ma cosa c'entra la fabbrica con la linguistica applicata? È una scienza cupa, come la fabbrica. Infatti tu, invece di sognare posti soleggiati, pieni di belle ragazze, sogni la linguistica applicata. Lo senti questo? Cos'è? Sei tu che ti stai arrampicando sugli specchi. Vabbè, ma guarda che io ho intuizioni, come ben sai sono una persona sensibile, quindi ho intuizioni. Non hanno alcun fondamento, lo so, però io la vivo così. La fabbrica mi condiziona in ogni gesto, ogni decisione, ogni pensiero. La fabbrica è tutto, Drago, ed essendo tutto non è niente. È semplicemente il mondo così come l'abbiamo conosciuto finora. Quindi in fondo che cosa cambia? Tu cambia la parola mondo con la parola fabbrica e sei a posto. La fabbrica non si è fermata mai un momento. Certo. Siamo la coppia più bella della fabbrica. Vabbè, questo su questo, guarda, non ci sono dubbi. A che ora è la fine della fabbrica? No. A che ora è la fine della fabbrica? In liga, il campovolo, per favore. Cantami di tutto, ma non in liga. Ma pare che questo è un pezzo dei REM, cioè degli R.E.M., non del liga. Però vabbè, non è così automatico, vedi che basta mettere fabbrica dove prima c'era mondo. Le canzoni invece non così. Riescono. La fabbrica si è estesa, ha allargato il suo perimetro senza farsene accorgere. Noi dal centro non abbiamo notato niente, ma i polli di periferia lo sanno bene. I polli delle banlieue. Loro sì che lo sanno. I lati si sono allargati e sono arrivati a racchiudere aree sempre più estese. Vieni con me, Drago, proviamo ad arrivare al muro di cinta se ne siamo capaci. Potremmo camminare per ore e ore senza mai arrivare a vederlo. Il muro di cinta. Ma io questi reparti mica me li ricordi. Dove sei? Forza. Qui prima c'era il mondo con tutti i suoi accidenti, le macchine, i semafori, i vigili, i pedoni. E adesso c'è la fabbrica. E questo processo non si ferma mai. Finché saremo nelle mani di gente che ci tratta come polli, il processo continuerà. Però aspettami, dai, non correre, dove vai? Vieni, dai. Magari correndo riusciamo a raggiungere il punto zero della fabbrica. Cosa stai dicendo? Il punto, Drago, in cui il mondo non è ancora fabbrica. e la fabbrica non è ancora mondo. Cosa dici? Parli come Marzullo. Corri, Drago, è inutile, perché questi giochini logici tu non li capisci. Meno male. E allora devi correre, perché è come il Big Bang. Il Big Bang che sta continuando da qualche parte ai limiti estremi dell'universo e sta creando galassie dove prima c'era solo il nulla, il vuoto. Big Bang. Ecco, adesso noi stiamo cercando di raggiungere il punto di espansione della fabbrica dove... Dove il mondo non è ancora fabbrica e la fabbrica non è ancora mondo, capito. La notte qui dentro è sempre la stessa e l'ora non cambia e non cambia la messa. Puoi fare pensieri di pura evasione, ma poi resta sempre la stessa scansione del tempo perduto qua giù. Si va, si parte, si atterra su Marte, si sogna la via più breve che c'è, si sta in disparte, si attende un segnale che ci può salvare dall'immobilità. La fabbrica di polli. Bene, allora, nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione si è deliberato all'unanimità di procedere con l'ampliamento della fabbrica di polli. Più che ampliamento lo definirei l'espansione, perché da oggi si aggrediscono i mercati esteri. Verremo quotati nelle principali borse europee e l'obiettivo finale è di arrivare al Nasdaq. Per fare questo, naturalmente, saranno necessari dei sacrifici, presumibilmente umani, perché occorrerà un grande sforzo finanziario a livello di investimenti, nel quale però il Consiglio crede. Ed ecco che nel momento in cui Scarfelli era andato alla toilette, Nozzani si era chinato sotto il tavolo perché Vetatti gli aveva allacciato le scarpe, il Vetatti stesso si stava premurando di ricaricare la stilografica, io ho messo ai voti, ho votato e quindi all'unanimità viene deciso e verbalizzato che la fabbrica di polli diventerà un impero planetario. Quando sono entrato io nella fabbrica, eravamo allo stretto. Si stava tutti uno vicino all'altro, senza privacy. Le stanzette erano piccole, i furgoncini che portavano via le uova erano piccoli, era tutto più piccolo. Poi hanno fatto i lavori di ampliamento e non hanno più smesso, C'è chi giura di aver visto padri consegnare il piccone ai figli prima di morire per far sì che continuassero loro l'opera di ampliamento. Adesso la prima linea di lavori si dice sia a 16 giorni di cammino da qui, a 360 gradi, senza contare le pause per il cibo e per il sonno. Qualcuno si ricorda ancora i primi tempi, quando gli operai dell'ampliamento lavoravano non lontano da qui, buttavano giù muri e poi ne alzavano altri per poi buttarli giù subito dopo e così via, lo sfinimento, come una delle città invisibili di Calvino. L'ampliamento è una specie di evento naturale, però è controllato e realizzato dall'uomo, quindi è una specie di evento fantascientifico. Hai capito, Tarek? Testa di rapa. L'ampliamento, sì. Ormai sono anni che gli operai dell'ampliamento sono solo una leggenda. Che ci siano si dice, ma nessuno li ha mai più visti. Che cosa succederà adesso? I leggendari operai dell'ampliamento sono appunto una leggenda o operai in carne e ossa? E l'ampliamento in corso avrà mai una fine? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo sindacalistico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen.